Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un caro saluto e una luminosa benedizione in questo tempo pasquale così ricco di spunti, di riflessioni. E noi ci inseriamo nella ricchezza di questo tempo liturgico per continuare a riflettere su quel libro che accompagna e descrive anche il tempo della Chiesa sotto la spinta del risorto e del dono dello Spirito, cioè il libro degli Atti degli Apostoli. Come sapete, la nostra trasmissione sta facendo la lettura continua di questo libro e questa sera arriviamo all'ultimo capitolo che non leggeremo per intero, rifletteremo insieme solo sulla prima parte di questo ultimo capitolo, il capitolo 28 degli Atti. Invito quanti di voi sono nella possibilità di farlo, cioè coloro che sostanzialmente non si trovano a guidare o non si trovano a letto per un motivo di malattia o altro, a prendere in mano un'edizione del Nuovo Testamento in modo da seguire più da vicino quanto insieme andiamo dicendo e condividendo. Invochiamo anche il dono dello Spirito Santo perché quanto diciamo possa in qualche modo scaldare non solo la nostra testa, ma il nostro cuore, illuminare quindi la vita di ciascuno di noi. C'è un passaggio che caratterizzava il brano del Vangelo di ieri, no? Dove a un certo punto Gesù, parlando con Pietro, dice: dove io vado, voi non potete venire. Una frase che sembra enigmatica, ma che riletta in un certo modo ci può far capire come pur con tutta la generosità del nostro cuore, Pietro di generosità ne aveva tanta, pur con tutta la nostra forza di volontà, pur con le migliori intenzioni di questo mondo, tutti aspetti che caratterizzavano l'apostolo Pietro, a un certo punto noi non riusciamo ad andare oltre. Ecco perché è importante anche in conversazioni come queste invocare il dono dello Spirito. Solo lo Spirito ci aiuta ad andare oltre la semplice lettera che noi leggiamo o ascoltiamo, per davvero fare della parola, restituire alla parola quella vitalità che ha la forza di plasmare i nostri cuori. Bene, noi questa sera condivideremo insieme i primi 12 versetti del capitolo 28 degli Atti. Divideremo questi versetti in tre momenti. Il primo momento racconta l'arrivo di Paolo nell'isola di Malta, dove praticamente la nave su cui si era imbarcato si sfascia sotto la furia della tempesta, i naufraghi trovano accoglienza in questa isola. Il secondo momento vedremo l'incontro di Paolo con il primo cittadino dell'isola, questo Publio, che si troverà con la sua casa trasformata in un luogo di testimonianza del Vangelo. E infine, l'ultimo momento della nostra conversazione, lo dedicheremo all'arrivo di Paolo in Italia, esattamente nella città di Siracusa. Quindi, cominciamo subito leggendo il testo e poi nel commento faremo una breve sintesi di quello che anche abbiamo detto la volta scorsa, giusto per creare un ponte tra la conversazione di oggi e quanto siamo andati dicendo in precedenza. Cominciamo con la lettura del testo, esattamente leggiamo i primi 6 versetti di questo capitolo 28. Una volta in salvo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli abitanti ci trattarono con rara umanità. Ci accolsero tutti attorno a un fuoco che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e lo gettava sul fuoco, una vipera saltò fuori a causa del calore e lo morse ad una mano. Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli abitanti dicevano tra loro: «Certamente costui è un assassino, perché sebbene scampato dal mare, la dea della giustizia non lo ha lasciato vivere. Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non patì alcun male. Quelli si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo, ma dopo aver molto atteso e vedendo che non gli succedeva nulla di straordinario, cambiarono parere e dicevano che egli era un dio. Bene, questi primi versetti raccontano l'arrivo di Paolo nell'isola di Malta. Ricordiamo dalla volta scorsa che la nave che si sfascia dopo la tempesta ha su di sé 276 passeggeri, 276 persone che vanno alla deriva. Il numero ci viene fornito direttamente dal narratore, da Luca, negli Atti degli Apostoli. E durante tutta la traversata, praticamente dall'isola di Creta, il forte vento aveva spinto questa nave in alto mare, spingendola fino verso Malta, e né il capitano né quelli che erano sulla barca sapevano dove stavano andando a finire, anche perché la pioggia, la bufera, l'uragano non permetteva di capire dove stavano andando con la barca. Bene, queste 276 persone che restano in mare per settimane, non per pochi giorni, hanno modo di sperimentare chi è con loro, cioè hanno modo di conoscere da vicino quest'uomo, Paolo di Tarso, questo grande apostolo. Capiscono che si tratta di un uomo di Dio, perché durante la traversata, la volta scorsa, abbiamo notato come Paolo condivide con tutti i passeggeri la visione di Dio, che assicura da parte del cielo che tutti si sarebbero salvati, che non ci sarebbe stata nessuna perdita di vite umane, ma che la nave e il carico sarebbero andati interamente persi. Quindi sperimentano la forza di un uomo di Dio, capiscono chi hanno a che vedere, chi è questo uomo di Dio. Hanno esperienza poi di cosa vuol dire essere comunità, perché quando cominciano a toccare terra i marinai fanno i furbi e vorrebbero calare le scialuppe, salire e abbandonare in fretta loro la nave per primi, e anche lì Paolo interviene dicendo: se loro abbandonano la nave nessuno si salverà, perché non ci sarà più chi può aiutare i prigionieri o le altre persone presenti sulla nave per raggiungere la riva. E allora il capitano in quel momento interviene tagliando le funi delle scialuppe in modo che le scialuppe vengano disperse nel mare e invitando tutti a unirsi gli uni gli altri per aiutarsi ad arrivare tutti sani e salvi sull'isola. E infine i presenti fanno l'esperienza di Paolo come un uomo che non ha solo una grande saggezza teologale, cioè non è solo l'uomo di Dio, ma è anche un uomo che ha una grande esperienza di mare, di vento, di scelte da fare, di capacità di affrontare le situazioni più difficili, cioè emerge una saggezza esperienziale unica in questo testo, che dà a Paolo un'autorevolezza unica. Ecco, tutto questo ci fa capire una cosa importante, cioè Malta passa alla storia come il luogo dove viene portata una evangelizzazione un po' particolare. Cosa intendo dire? Cioè, quando noi parliamo di evangelizzazione, in genere nella nostra testa, nella nostra mente, arriva subito l'immagine del predicatore, cioè di colui che si reca in un luogo e comincia ad annunciare il Vangelo attraverso la parola, cioè la lettura, la riflessione, lo spezzare il pane della parola in modo che tutti possano in qualche modo interiorizzarlo, approfondirlo, accoglierlo. Ora, questa è solo una modalità di evangelizzazione. Gli Atti degli Apostoli a questa modalità di evangelizzazione, che se volete è l'evangelizzazione attraverso la parola, propongono due altre modalità di evangelizzazione che sono complementari alla prima. E le altre due modalità sono la modalità dell'esempio, dell'esemplarità, per cui uno attraverso il suo stile di vita, senza dire troppe parole, diventa colui che provoca il cambiamento nell'altro e lo predispone all'accoglienza del Vangelo. E poi c'è una terza forma che sarà quella che noi vedremo soprattutto a Malta, cioè la forma di evangelizzazione che passa attraverso i segni. Quello che è interessante è che tutto il percorso che porta Paolo da Cesarea a Malta e poi da Malta a Roma è caratterizzato sostanzialmente da queste tre modalità di evangelizzazione. Cioè la decisione di imbarcarsi per venire a Roma è conseguenza del grande discorso che Paolo ha tenuto davanti a Agrippa, Festo e Berenice con tutto il loro entourage, che si trovano a dover giustificare davanti a Roma il perché loro mandano questo prigioniero, che sembra non aver fatto grandi danni all'impero, ma perché si trovano a doverlo mandare in giudizio a Roma. E allora c'è questa occasione dove Paolo, davanti alle grandi autorità dell'impero, tiene un grande discorso. Ecco, allora l'evangelizzazione a parola, attraverso la via della parola, cioè l'annuncio di Gesù Cristo che ha sofferto, è morto, è risorto e quindi ha vinto la morte per amore dell'umanità, per amore degli uomini. Da qui si passa al secondo modello di evangelizzazione che da Cesarea caratterizza tutto il percorso fino a Malta, cioè Paolo è immerso nella comunità di altre persone, che sono tutti coloro che viaggiano insieme a lui, quindi l'equipaggio della nave, i soldati che devono garantire la sicurezza, gli altri prigionieri, e in mezzo a loro diventa una figura esemplare. Esemplare perché sa cogliere la concretezza delle cose, sa offrire una lettura degli eventi, ma non solo, all'interno di tutto questo sa anche indicare colui per il quale la vita di ogni persona è preziosa e grazie alla visione assicurerà a tutti che tutti si potranno salvare. È un'esemplarità che unisce la visione di Dio con la concretezza dell'uomo, per cui in mezzo alla tempesta sa quali scelte deve fare, in mezzo al pericolo sa quali sono le vie per salvarsi e anche in mezzo ai rischi a cui si espone non ha paura di dire al comandante: guarda che se parti noi rischiamo la vita. Poi il comandante deciderà di fare così, però Paolo l'aveva detto e non eviterà nemmeno di ricordarlo al comandante quando la vita è davvero in pericolo. L'avevo detto, cioè ha la chiarezza di vedute e la chiarezza di idee. Ecco, questa è l'esemplarità dell'uomo di Dio, non è un uomo estraniato nelle nubi del cielo in una visione che non ha niente a che fare con le scelte su questa terra, ma è una persona che sa unire una saggezza esperienziale e teologale. Quindi tutto il percorso che da Cesarea porta a Malta è caratterizzato da questa seconda forma di evangelizzazione, per arrivare quindi a Malta dove la forma di evangelizzazione passa attraverso i segni. Se noi notiamo, basta leggere semplicemente questi 12 versetti del capitolo 28 degli Atti, noterete che qui Paolo non tiene nessun discorso, non fa nessuna omelia, nessuna predica, ma l'annuncio passa attraverso i segni. E il primo segno è quello della vipera. Qua noi dobbiamo stare attenti perché in genere noi quando pensiamo al segno abbiamo un pochino una lettura distorta di che cosa è il segno, il miracolo, quello che noi chiamiamo miracolo. Noi intendiamo il miracolo o il segno dell'uomo di Dio come un qualcosa di cui appropriarmi a mio beneficio. Mentre nella prima generazione cristiana il segno o il miracolo, pensate anche al forte significato che questo termine ha ad esempio nel Vangelo di Giovanni. Il segno non è un qualcosa di cui io mi approprio per un beneficio mio personale, ma il segno serve per richiamare la presenza di Dio nel mio oggi e per costruire attorno alla presenza di Dio una comunità, cioè non è un qualcosa solo per me. Io sono malato, chiedo il miracolo perché io possa essere guarito, questo va a mio beneficio e poi faccio un voto per cui tutti gli anni mi reco in quel santuario e in quel luogo per ringraziare il Signore, va bene? Però il segno di cui parla il Nuovo Testamento è qualcosa di davvero di molto più ampio, non è legato a un singolo, ma è legato a una comunità che riconosce i segni di Dio e fa spazio a questo Dio perché Dio possa plasmare la comunità. Noi tra l'altro vediamo anche, abbiamo nella nostra lettura distorta, vediamo anche il segno come qualcosa di straordinario, come qualcosa che rompe l'ordinarietà delle cose. Invece nella prima generazione cristiana il segno, la presenza del miracolo, non è qualcosa che rompe l'ordinarietà e basta, ma è qualcosa che si impasta con l'ordinarietà. Cioè il Dio che passa è un Dio così carico di vita che a un certo punto la vita fiorisce. Se uno ha in mano una spugna bagnata, piena d'acqua, state pur certi che si bagna, perché quella spugna è piena d'acqua, non è un fatto straordinario. Chi è in contatto con un uomo di Dio entra in contatto con Dio, chi è in contatto con una persona che profuma di Spirito Santo si porta addosso poi il profumo dello Spirito Santo. Questo è tipico dell'ordinarietà delle cose, anche se nell'ordinarietà passa un qualcosa di straordinario. Ora, la visione cristiana delle origini è proprio quella di impastare l'ordinario con lo straordinario, non fare dell'uno un elemento che una tantum, in casi proprio eccezionali, va a rompere l'ordinarietà delle cose, proprio perché l'uomo è rivestito della risurrezione. Infine, nel nostro modo distorto di cogliere il concetto di segno, noi colleghiamo il segno a una persona particolare, il segno è quello del taumaturgo, cioè una persona che ha dei doni particolari che riversa sull'umanità. Invece nel mandato che risorto dà ai discepoli, gli stessi segni che lui ha fatto vengono affidati agli apostoli e gli apostoli a loro volta li trasmettono a tutti quei fedeli che vivono la vocazione profetica, sacerdotale e regale fin dal giorno del battesimo. Vedete, allora, è in questo contesto che noi dobbiamo cogliere l'evangelizzazione di Paolo a Malta, perché è una forma di evangelizzazione che diventa complementare con le altre due forme, quella dell'annuncio attraverso le parole e quello di un'esemplarità di vita che sa abitare e sa rivelare il volto di Dio anche nelle situazioni più complesse dove si richiede una esperienza specifica. Bene, prima di continuare nella nostra riflessione, facciamo un breve stacco musicale in cui vi invito a rileggere brevemente questi primi 6 versetti che descrivono proprio l'approdo di Paolo a Malta e il primo segno che viene fatto all'interno di questa comunità. Nulla ci appartiene ormai, ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. Bene, torniamo con la nostra riflessione, dove stavamo commentando questo testo in cui viene descritto l'approdo di Paolo insieme a tutti gli altri naufraghi, ricordiamo sono 276 persone, Paolo incluso, in un'isola misteriosa che poi scoprono essere l'isola che si chiamava Malta. Il testo ci dice che gli abitanti li accolgono con rara umanità, che bell'esempio, un esempio che ispira, potrebbe illuminare molto l'attualità di questo tempo. Gli abitanti qui vengono tra l'altro indicati con un termine greco che non sembra essere molto onorifico nei loro confronti, vengono chiamati barbari. Il termine noi traduciamo con abitanti, ma il termine greco ha barbaroi. Come mai viene utilizzato questo termine? Perché gli abitanti di Malta non parlavano il greco, quindi parlando una lingua incomprensibile, a Malta si parlava il punico, che era una lingua simile alle lingue fenice, proprio per questo viene dato da Luca questo appellativo di questi barbari che accolgono. Però nonostante la definizione, questi barbari si rivelano particolarmente ospitali, accolgono i 276 naufraghi, si preoccupano di riscaldarli con il fuoco e lì ecco il primo segno. Il primo segno è quello di questa vipera che salta fuori a causa del calore, morde Paolo a una mano che con nonchalance si libera dalla vipera e la getta nel fuoco. Tutti pensano che da un momento all'altro Paolo cada con l'effetto del veleno nel corpo e invece nulla gli succede. E qui noi vediamo che viene già dato un messaggio forte. Qual è il messaggio forte? Con questo semplice segno viene riproposto agli abitanti del luogo una forma di evangelizzazione, che è quella che noi troviamo anche alla fine del Vangelo di Marco. Alla fine del Vangelo di Marco ci viene detto che Gesù, prima di tornare al Padre, si rivolge ai discepoli dicendo così: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato al cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Vedete, la finale di Marco, questi sono proprio i versetti conclusivi del secondo Vangelo, la finale di Marco sottolinea come l'evangelizzazione non passa solo attraverso la parola, ma viene confermata dai segni. Ora, quello che avviene a Malta sono proprio i segni che qui vengono descritti, cioè Paolo prende in mano il serpente, pur avendo il veleno nel corpo, questo veleno non reca danno, e poi vedremo cosa succede dopo, nel senso che imporrà le mani sui malati e questi guariscono. È il compimento del mandato che Gesù aveva dato agli apostoli prima di tornare al Padre. E diventa quindi segno di questo Signore che agisce con loro e conferma la parola con i segni che la accompagnano. Detto in altri termini, cosa annuncia Paolo di fronte ai barbari di Malta, agli abitanti di Malta? Prima di tutto annuncia che Gesù è vivo, perché la sua stessa forza, di cui lui è l'espressione, continua a operare attraverso le cose che Gesù faceva, cioè caccia tutto ciò che è velenoso, guarisce tutte le malattie e riesce a salvare la vita di tutti coloro che sono stati esposti al naufragio. È interessante, gli abitanti dell'isola fanno l'associazione tra quello che succede e il male, come se la divinità della giustizia, la divinità pagana della giustizia, voglia far pagare al prigioniero Paolo tutto il male che ha commesso. Ovviamente gli abitanti dell'isola non sanno perché Paolo è prigioniero, non sanno cosa ha combinato, sa che è un prigioniero come gli altri. Quando poi vedono che il veleno della vipera non produce nessun frutto, allora cambiano visione e pensano che sia un dio, perché nessuno può sopravvivere al veleno di una vipera. Quindi lì passa la forma di annuncio attraverso il segno. Paolo diventa segno di un Gesù che è vivo in mezzo all'umanità. Paolo però dà anche un altro segno, diventa segno che lui è il suo inviato, è un apostolo autorizzato, un apostolo che ha un mandato particolare, quindi si distingue subito dagli altri prigionieri, non è solo un naufrago, non è solo un membro che era su quella nave, ma è qualcuno di più, è qualcuno di autorevole da cui accogliere un'eredità di vita. E infine, terzo messaggio, questo segno che è ancora malato perché i barbari praticamente dell'isola non sanno bene come leggerlo, ha già prodotto il primo effetto, cioè sta creando una disposizione di fondo nel cuore degli abitanti dell'isola per accogliere quello che Paolo, stando in mezzo a loro, può condividere con loro. Quindi predispone all'accoglienza di un Vangelo che in questi versetti non viene tradotto in annuncio, ma sicuramente comincia a tessere quella relazione tra Paolo e gli abitanti dell'isola che è la via privilegiata per l'annuncio del Vangelo. Sentiamo però come continua la narrazione ascoltando i versetti dal 7 al 10. Là vicino vi erano i possedimenti appartenenti al governatore dell'isola, di nome Publio. Questi ci accolse e ci ospitò con benevolenza per 3 giorni. Avvenne che il padre di Publio giacesse a letto colpito da febbri e da dissenteria. Paolo andò a visitarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto anche gli altri abitanti dell'isola che avevano malattie accorrevano e venivano guariti. Ci colmarono così di molti onori e al momento della partenza ci rifornirono del necessario. Vedete, dal primo segno, dal segno della vipera che riguarda Paolo, si passa al secondo segno e il secondo segno riguarda il primo cittadino dell'isola di Malta, il governatore, questo Publio. Ci viene detto che Paolo accoglie e ospita i naufraghi, che Publio accoglie e ospita i naufraghi con benevolenza per 3 giorni. E qua sembra quasi di rievocare nella mente, no, quel passaggio del Nuovo Testamento dove si dice che alcuni, senza saperlo, praticando l'ospitalità, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. E qui chi scrive questa frase faceva riferimento alla storia di Tobia e l'angelo, no? Dove il figlio di Tobia viene mandato a cercare la propria moglie, a cercare l'eredità, poi con l'eredità trova anche la moglie, e per farsi accompagnare nel viaggio Dio manda il suo angelo, l'angelo Raffaele, viene accolto come un accompagnatore, ma si tratta dell'angelo di Dio. Lo stesso vale per i 3 viandanti che si trovano a bussare a Mamre, alla quercia di Abramo. Abramo li accoglie, ha verso di loro degli onori unici e lì a un certo punto si accorge che non sono solo dei viandanti, ma è l'espressione di Dio, sono gli inviati di Dio che bussano alle sue porte, che gli permettono di aprire l'orizzonte alla speranza. Ma qualcosa di simile avviene anche qui. Publio ospita i 276 naufraghi e la sua ospitalità gli permette di avere a che fare con un inviato di Dio, un vero messaggero di Dio, questo messaggero a nome Paolo. Guardate, davvero il brano di questa sera è di un'attualità spaventosa perché ci fa capire quanto il tema dell'ospitalità alla luce del testo dei testi neotestamentari sia dirompente, sia forte e ci tracci davvero il cammino di un'esistenza autenticamente cristiana. E qui Publio ci viene detto che li accoglie con benevolenza per 3 giorni. Il numero sicuramente ha un suo significato, anche perché questi 3 giorni corrispondono al ristabilimento, quindi alla rimessa in piedi di una persona che rischia la morte. E questa persona che rischia la morte è niente meno che il padre di Publio, colpito da febbri e da dissenteria. Quindi Paolo lo visita, lo guarisce, e dopo questa guarigione succede che tutti gli altri abitanti dell'isola che avevano malattia correvano e tutti venivano guariti. Abbiamo visto prima come il segno del serpente corrisponde alla fine del Vangelo di Marco. E qui restiamo stupiti perché il segno nei confronti di Publio e di suo padre sembra riprendere invece gli inizi del ministero pubblico di Gesù sempre nel Vangelo di Marco. E allora rileggo il passaggio dove agli inizi del ministero pubblico di Gesù succede la stessa cosa. Il testo di Marco al capitolo 1 così narra: subito usciti dalla sinagoga andarono nella casa di Simone e di Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Vedete, in Paolo rivive il ministero pubblico di Gesù. Non solo rivive il mandato che Gesù dà agli apostoli, ma rivive tutto il ministero pubblico di Gesù. Dove Gesù va nella casa della suocera di Pietro, Paolo va nella casa del primo cittadino dell'isola. Dove Gesù guarisce la suocera di Pietro dalla febbre, Paolo guarisce dalla febbre e dalla dissenteria il padre del primo cittadino dell'isola. Dove tutti gli abitanti di Cafarno portano i malati a Gesù, così tutti gli abitanti di Malta portano i loro malati a Paolo. Gesù guarisce molti, Paolo guarisce quelli che gli vengono portati. Paolo è riempito di onori, Gesù sarà ricercato dagli abitanti di Cafarno perché vogliono ovviamente che rimanga con loro. E al centro cosa c'è? Al centro c'è una parola che diventa annuncio attraverso il segno. Cosa vogliono dire queste corrispondenze tra Marco e gli Atti degli Apostoli? Ma ci dicono sicuramente che quell'arrivo a Malta inaugura una pagina nuova, come la guarigione della suocera di Pietro rappresenta l'inizio del ministero pubblico di Gesù, dopo ciò che è avvenuto nella sinagoga ovviamente, però rappresenta, fa parte della prima grande giornata che inaugura il lungo ministero pubblico di Gesù, sembra che gli eventi di Malta vogliano sottolineare che il ministero di Paolo non è finito, non è che perché ha fatto naufragio o perché è prigioniero il suo ministero è finito, no, il suo ministero sta entrando in una fase di grande fecondità, dove probabilmente parlerà molto poco, perché Paolo è prigioniero, ma dove sarà possibile esercitare l'evangelizzazione attraverso l'esemplarità di vita e i segni che questa esemplarità produce. Secondo aspetto, come nel Vangelo di Marco, questo è il momento in cui Gesù ribadirà davanti a coloro che lo vogliono trattenere a Cafarno un altrove che lo attende, ugualmente l'episodio di Malta fa di Paolo il testimone di un altrove per questa popolazione barbara e idolatra, ma anche di un altrove per coloro che lo vorrebbero trattenere. Paolo sa che il suo destino non è Malta, ma è la città di Roma. E poi è significativo anche il fatto che qua ci viene detto che Publio lo ospita per 3 giorni, ma subito dopo verrà precisato che Paolo si ferma a Malta 3 mesi grazie a quei segni. E quindi è evidente che in 3 mesi Paolo non ha esercitato solo l'evangelizzazione dell'esemplarità o l'evangelizzazione dei segni, ma ha esercitato anche l'evangelizzazione della parola. Fino ad oggi Malta resta un grande baluardo della cristianità. Si dice che più del 95% della popolazione sia radicata proprio nella fede cristiana già da quei tempi, cioè il passaggio di Paolo non è stato un passaggio che ha lasciato indifferente la popolazione, è stato un passaggio che ha segnato l'isola in modo forte. Bene, facciamo ancora un breve stacco musicale prima di toccare gli ultimi 2 versetti del brano di questa sera, che narrano l'arrivo di Paolo a Siracusa, quindi sulle coste italiane. Un breve stacco musicale. Bene, cari ascoltatori, stiamo seguendo il percorso di Paolo che, lasciando Cesarea, era arrivato a Creta con gli altri 276 membri dell'equipaggio, tra cui ci sono dei prigionieri, membri dell'equipaggio, altre persone insieme a lui che lo accompagnano. Esposto al naufragio, all'uragano, la nave viene spinta fino alle vicinanze di Malta, qui si sfascia e sostanzialmente tutti i membri della nave vengono accolti a Malta. Abbiamo visto come i barbari dell'isola accolgono con tanta attenzione, tanta cura tutti i 276 naufraghi, e in questa accoglienza emerge la figura di Paolo, che testimonia il Vangelo attraverso non solo l'esemplarità di vita, ma attraverso dei segni che manifestano la presenza di Dio in mezzo a quella popolazione. Per 3 giorni vengono tutti accolti dal primo cittadino dell'isola, Publio, che non conosce direttamente Paolo né gli altri passeggeri, però riserva loro una grande ospitalità, e abbiamo visto come veramente qui si realizza quel versetto del Nuovo Testamento dove si dice che diverse persone, nel praticare l'ospitalità senza prevederlo, hanno accolto dei veri e propri angeli, ed è stato proprio il caso di Publio. Questi 3 giorni, dicevamo, che si trasformano però in 3 mesi. Dove lo sappiamo? Lo sappiamo dai 2 versetti successivi, dove Luca, il narratore, dice: dopo 3 mesi salpammo con una nave di Alessandria recante l'insegna dei Dioscuri, che aveva svernato nell'isola. Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo 3 giorni. Ecco, noi ci fermiamo sostanzialmente a questi 2 versetti che commentiamo prima poi di dare spazio alle vostre domande. Paolo si ferma quindi 3 mesi nell'isola di Malta, e questi 3 mesi lasceranno il segno. Come mai si ferma 3 mesi? Ma prima di tutto perché occorre svernare, dopo tutte le vicende che hanno caratterizzato la traversata, quindi il tempo avverso, occorre che l'inverno passi e si possa riprendere la navigazione quando le condizioni meteorologiche sono più sicure. Quindi i 3 mesi sono legati anche a questo, e i 3 mesi danno la possibilità sicuramente a Paolo di testimoniare il Vangelo in cui crede. Dopodiché, dopo questi 3 mesi, riprendono una nave. Ci viene detto che la nave reca l'insegna dei Dioscuri. Chi sono i Dioscuri? I Dioscuri sono i figli di Zeus, i due gemelli Castore e Polluce, che erano considerati dalla mitologia pagana i figli di Zeus e di Leda. Castore era considerato un abile cavaliere, mentre Polluce era un astuto lottatore. Sapete che a questi due gemelli, tra l'altro, è collegata anche il segno zodiacale proprio dei gemelli, si rifà ai due Dioscuri, ed erano considerate le divinità protettrici dei viaggiatori e dei marinai, ecco perché la nave portava Castore e Polluce come insegne della navigazione. E con questa nave ecco l'arrivo di Paolo con tutti gli altri in Italia. E l'approdo in Italia arriva, la prima tappa di Paolo in Italia è Siracusa. Ancora oggi a Siracusa esiste proprio una chiesa dedicata a San Paolo in quel prolungamento della città proprio verso il mare, e questo edificio, che è un edificio recente, la chiesa di San Paolo di Siracusa è una chiesa recente, però sorge sui resti del cosiddetto Apollonium, che sono tutti i resti di una grande via romana della Siracusa antica, quindi davvero sia il modo, cioè la logistica del territorio dove si trova questa chiesa, sia il luogo in cui è costruita, fa pensare che ci sia davvero una tradizione di antica data che si è trasmessa con una certa continuità fino ai nostri giorni. Quando Paolo arriva in Italia, il cristianesimo ovviamente in Italia c'è già, non è che lo porta Paolo, L'obiettivo di Paolo, sappiamo, era quello di visitare Roma. Ora ovviamente è prigioniero, quindi il suo destino è Roma, finché non si deciderà il futuro di quest'uomo, se portarlo alla morte o se liberarlo. Vedremo anche la volta prossima cosa probabilmente è successo a Paolo dopo i 2 anni di prigionia romana. E possiamo qui collegarci ad un altro brano del Nuovo Testamento, ed è esattamente il brano della lettera ai Romani, dove Paolo, quando inviò la lettera ai Romani, si rivolse ai credenti di Roma dicendo un pochino quali erano i suoi progetti. Cioè Paolo sì, arriva a Roma da prigioniero, ma sicuramente non ha rinunciato ai progetti che lui aveva, quindi quando mette piede sul territorio dell'attuale Italia, sicuramente nella sua testa riaffiorano i progetti che lui aveva. E quali sono questi progetti? Vengono descritti al capitolo 15 della lettera ai Romani, dove Paolo dice così: non trovando più un campo d'azione in queste regioni, e avendo già da tempo un vivo desiderio di venire da voi, spero di vedervi di passaggio quando andrò in Spagna e di essere da voi aiutato per recarmi in quella regione dopo aver goduto un poco della vostra presenza. Cioè Paolo arriva in Italia, visiterà ovviamente le diverse comunità d'Italia, no? Comunità cristiane d'Italia. La volta prossima dedicheremo proprio la nostra conversazione a questo, però il suo obiettivo non è quello di fermarsi in Italia, resterà ovviamente come prigioniero, resterà a lungo a Roma, però il progetto iniziale non era quello di rimanere a Roma. Roma è per lui una fase di passaggio, e uno si chiede: ma come mai non si vuole fermare in una comunità così significativa, perché posta in una posizione strategica? Paolo è un apostolo che sempre ha valorizzato le posizioni strategiche. A Corinto si è fermato a lungo, 18 mesi, dice Luca negli Atti degli Apostoli. A Efeso si è fermato a lungo, 2 anni e mezzo sembra, stando agli Atti degli Apostoli. E l'uno e l'altro erano dei punti di snodo. Efeso per l'Oriente, Corinto per l'Occidente, ma Roma è proprio il centro dell'impero. Come mai Paolo vuole passarsi, vuole andare lì solo di passaggio? Ma semplicemente perché l'evangelizzazione a Roma era già portata avanti da altri credenti. I primi credenti di cui conosciamo il nome nella Roma cristiana sono niente meno che Aquila e Prisca, quelli che vengono espulsi dall'editto di Claudio nel 50-51 d.C., probabilmente perché con il loro credo creavano, insieme ad altri gruppi di ebrei particolarmente radicati nella religiosità, creavano qualche disturbo all'interno della città, almeno questo ci dicono le cronache del tempo. Quindi il cristianesimo è già ben radicato a Roma. Tra l'altro, se Paolo indirizza la sua lettera, che è un vero testamento teologico, alla comunità cristiana di Roma, vuol dire che è anche una comunità che ha una certa solidità, che rappresenta una certa garanzia, ma il suo obiettivo è arrivare ai confini della terra allora conosciuta, cioè di arrivare alla Spagna. Quindi dobbiamo immaginare, almeno io penso così, che Paolo non appena è riuscito a mettere piede sulla terra del territorio italiano, abbia proprio sentito risuonare nuovamente nel suo cuore il desiderio di andare fino ai confini dell'impero, cogliendo anche Roma come un grande trampolino di lancio verso i confini dell'impero. Ora il Signore, un conto sono i progetti di Paolo, tante volte i progetti, Paolo scrive dei suoi progetti, però i progetti poi saltano, perché lo Spirito di Dio ha in mente altre cose per lui. E così succederà qui, la prigionia romana si prolungherà per almeno 2 anni, lo ascolteremo la volta prossima, e questo permetterà a Paolo di continuare a testimoniare il Vangelo attraverso l'esemplarità di vita, cioè questa altra forma di evangelizzazione. Bene, cari ascoltatori, abbiamo visto questa sera il percorso di Paolo nell'isola di Malta, l'arrivo di Paolo in territorio italiano, ponendo proprio il suo piede nella città di Siracusa, nella Sicilia, che da allora ad oggi resta un po' l'emblema di questa possibilità grande di accoglienza di coloro che Dio invia, ma quello che colpisce di più in tutto questo racconto è che sembra proprio che Luca vuole portarci a una considerazione, che è la considerazione di chi è il vero credente. Chi è il vero credente? Chi è il vero messaggero di Cristo? Colui in cui il Cristo rivive, cioè in Paolo noi vediamo rivivere il mandato che il risorto ha dato ai discepoli. In Paolo noi abbiamo visto rivivere gli inizi del ministero pubblico di Gesù a Cafarno. In Paolo noi vediamo rivivere i grandi orizzonti dell'annuncio missionario che il risorto affida i suoi senza esclusione di nessuno, e Paolo lo dirà più volte, non c'è più giudeo né greco, non c'è più uomo né donna, non c'è più schiavo né libero, ma tutti siamo uno in Cristo Gesù. È quello che emerge in Paolo, è la vita del risorto, in Paolo il risorto vive, pensa, annuncia, compie i segni, l'esemplarità di vita di Paolo non è altro che trasparenza della vita del risorto, e questa è la vera grande evangelizzazione di cui Paolo è testimone. Cari ascoltatori, ora lasceremo lo spazio per alcune vostre domande, abbiamo ancora una ventina di minuti e come sapete questa nostra conversazione prevede anche questo momento dove voi con i vostri brevi interventi, i vostri interrogativi potete arricchire quanto siamo andati dicendo in questi 40 minuti, 45 minuti di conversazione. Quindi lascio la parola alla regia che vi darà le indicazioni per intervenire in questa nostra conversazione. Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora, quanta vita, quante attese di felicità, quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora, splendidi universi accanto a me. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto, eccomi. Buonasera, sono Massimo. Buonasera, sono Massimo, chiamo dalla Sicilia. Volevo fare una semplice domanda, oltre il percorso di San Paolo appena spiegato. In questo contesto, San Pietro dove si trova e dove si rincontrano, se si rincontrano poi a Roma? Non so. La domanda è questa, l'ascolto per radio. Grazie mille Massimo per questa domanda. Allora, per rispondere qua dobbiamo distinguere praticamente due filoni diversi. Da un lato le notizie che noi possiamo avere dalla scrittura, dal Nuovo Testamento, dall'altro le notizie che ci giungono dalla tradizione, cioè da quelli che saranno poi i testi apocrifi. Il Nuovo Testamento non ci dice nulla in merito. Sembra che Pietro sia comunque presente a Roma come persona che sostiene la comunità di Roma, e alcuni dicono è proprio per questo che Paolo pensa a Roma solo come punto di passaggio, perché Roma ha già il suo punto di riferimento solido, non ha bisogno di lui, e quindi Paolo penserebbe alla Spagna. La tradizione apocrifa sottolinea soprattutto questo aspetto qui, sottolinea la compresenza degli apostoli a Roma, la compresenza degli apostoli come prigionieri dell'impero, fino al punto che lo stesso martirio avviene nello stesso tempo, i due vengono portati al martirio praticamente in contemporanea, con un ultimo abbraccio su quella che è la via Ostiense. Noi dobbiamo però tenere presente che il racconto apocrifo che porta il nome degli Atti di Pietro e Paolo viene, come dire, redatto in un periodo in cui Paolo rischiava di essere un pochino estromesso dalla comunità dei primi cristiani, perché era finito in pasto un po' agli eretici che lo fraintendevano, e allora tutti avevano un po' paura di commentare le lettere di Paolo. E allora Leone Magno, un grande papa dei primi secoli, percependo il rischio di perdere la grande eredità e l'enorme importanza di Paolo, cosa fece? Favorì la ricostruzione della storia di Paolo e Pietro mettendo in parallelo le vicende dei due apostoli, e quindi partendo da alcuni dati che la tradizione gli aveva messo tra le mani, favorì la ricomposizione degli Atti di Pietro e Paolo, dove i due abitano la stessa città, Roma, sono prigionieri nella stessa città, Roma, finiscono nello stesso carcere, il carcere mamertino, vengono accompagnati insieme al martirio sulla via Ostiense, dove però i due vengono poi divisi, quindi uno viene martirizzato nella zona del Vaticano, l'altro invece alle attuali Tre Fontane. Però ecco, questo è il dato della tradizione. Se il dato della tradizione corrisponde al dato storico, c'è proprio difficile dirlo, anzi sembra che le due storie, le due vicende di Paolo e Pietro abbiano seguito percorsi proprio diversi, nel senso che sembra che Paolo sia stato martirizzato dopo l'Apostolo Pietro, molto dopo l'Apostolo Pietro. Però ecco, al di là di questo, sembra che Pietro sia, per rispondere alla sua domanda, dove era Pietro quando Paolo arriva in Italia, sembra che Pietro fosse a Roma, però non abbiamo dati certi al 100% per confermare questa mia risposta. La ringrazio Massimo per il suo intervento. Pronto, buonasera. Buonasera, io sono Battista da Siracusa. Mi dica, signor Battista. Sì, io conosco la storia di San Paolo quando è arrivato a Siracusa, vogliono dire che è andato a Palazzolo Ceti, che è un paese che è visto 50 chilometri da Siracusa. Io le chiedo, come è andato via mare, via terra? Perché dicono che sia andato via mare, alcuni dicono via terra, e poi è vero che è rimasto 3 giorni a Palazzo Lacrede. E poi le voglio fare una seconda domanda che non c'entra con San Paolo: come mai Gesù, Dio che può tutto, che fa tutto, non ha definitivamente debellato il demonio, proprio distruggerlo definitivamente? La ringrazio e l'ascolto per telefono. Caro Battista, ecco, mi aspettavo io in questa mia conversazione proprio le telefonate che arrivavano da Siracusa e mi sono detto, ma speriamo che intervenga qualcuno da Siracusa in modo da conoscere anche quali sono le altre tradizioni che poi sono fiorite attorno a Siracusa, perché sapete, uno va a cercare qualche tradizione locale guardando sui siti della diocesi, ma a dire il vero su San Paolo non ho trovato molto, ho detto come mai, a parte questa tradizione legata a questa chiesa che sembra proprio un qualcosa di attendibile. Ora, penso che comunque attorno a Siracusa poi siano nate altre vicende, un po' come la tradizione apocrifa, per cui tutti abbiano in qualche modo desiderato che Paolo passasse anche nei dintorni di Siracusa. Se però noi stiamo al testo, il testo ci dice che quando approdammo a Siracusa rimanemmo 3 giorni. Quindi in 3 giorni non è che uno possa fare delle lunghe camminate. E poi il testo continua dicendo che salpati di qui, se si salpa vuol dire che risalgono sulla nave che porta il segno dei Dioscuri, che non vanno a piedi, no? Salpati di qui giungemmo a Reggio, la volta prossima parleremo di Reggio Calabria, dove ci sono delle cose interessanti proprio da dire, no? Quindi Paolo resta a Siracusa 3 giorni insieme a tutti gli altri 275, salpano da Siracusa per andare a Reggio in nave, in barca, in nave, non in barca, in nave. Quindi se è andato nelle zone circostanti vicino a Siracusa, ecco, dobbiamo calcolare uno spazio di tempo non superiore al giorno e mezzo, perché bisogna andare e poi tornare. Quindi le altre tradizioni come sono nate bisognerebbe un po' approfondire, cioè non sono in grado di rispondere nel dettaglio alla prima domanda. La seconda domanda tocca una questione delicata, cioè perché il Signore non ha sconfitto definitivamente il demonio. Allora, io direi che il Signore lo ha sconfitto definitivamente il demonio, perché ha sconfitto, ha tolto al demonio il suo pungiglione, il pungiglione della morte, del peccato e la morte, no? Dice sempre il Nuovo Testamento. Quindi se Gesù ha sconfitto la morte, ha sconfitto anche il principe della morte, che è il demonio. Però resta il mistero della libertà dell'uomo. Finché noi siamo su questa terra, proprio per la libertà che ci è concessa, ci è lasciata la possibilità di scegliere il bene o il male. E quindi questa possibilità di scegliere il bene o il male, finché noi scegliamo nel nostro cuore il male, non facciamo altro che dare vitalità a qualcuno che di per sé è già morto, è già finito, cioè il demonio. Però gli diamo ancora potere su di noi, e finché lui ha potere su uno di noi, lui è ancora in vita. Quindi questo, il mistero della sua domanda, trova una risposta, se vuole, nel libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse cerca di spiegare gli enigmi della storia, l'enigma del bene e l'enigma del male, no? Con quel rotolo chiuso con 7 sigilli. però ci dice anche qual è il fine della storia, quando il male verrà totalmente sconfitto e Cristo sarà tutto in tutti. Paolo stesso lo dice nella corrispondenza con i Corinzi: l'ultimo nemico ad essere sconfitto sarà proprio la morte. Però ci dobbiamo passare per ora tutti in mezzo, come ci è passato in mezzo sconfiggendola lo stesso Signore Gesù. Grazie di cuore Battista per essere intervenuto in questa nostra conversazione. Pronto? Pronto, pronto? Buonasera, con buonasera. Chi parlo? Buonasera, sì, sono Rosa da Roma. Sì. Senta, riguardo a tutta la trasmissione, l'ho sentita quasi per intero, e le tradizioni diverse, noi ne abbiamo una, cioè che è approdata qui a Roma da tanto tempo, è una lettera proprio scritta dalla Madonnina con le sue mani, data a San Paolo, e che lui è sbarcato a Messina, e hanno questa lettera scritta a mano da Maria, caro popolo messinese da me amato, incastonato nell'altare della cattedrale. Oddio, io se le ho questa lettera che da recitare poi ogni giorno, quanto è vera allora questa tradizione di Messina, che si dice abbiano, io non so in Sicilia, che abbiano questa lettera scritta a mano nell'altare della cattedrale a Messina, però Messina non Siracusa, ecco perché sono rimasta un pochettino. Poi lei mi ha detto adesso che poi va in Calabria, quindi salta proprio la questione di Messina. È qui che nascono i problemi, capito? Grazie di cuore Rosa. Allora, prima di tutto la ringrazio perché mi mette a conoscenza di una tradizione che sinceramente, umilmente non conosco, no? Questo ci dà modo, prima di tutto diventa per me stimolo per approfondire, in modo che la prossima volta io voglio toccare le diverse tappe che Paolo fa prima di arrivare a Roma, quindi non termineremo la volta prossima la lettura degli Atti degli Apostoli, perché se io vado a scavare nei luoghi menzionati negli Atti degli Apostoli, capite bene che ci vuole del tempo, e quindi la volta prossima vedremo quante città andremo a toccare, ma poi queste città si arricchiscono delle tradizioni che si sono poi aggiunte a quello che Luca narra negli Atti degli Apostoli. Ora, quello che mi preme dire, noi distinguiamo la testimonianza del testo biblico, quindi la testimonianza degli Atti. Gli Atti non parlano di Messina, parlano di Siracusa, però distinguiamo la testimonianza biblica dalle tradizioni, però non sottovalutiamo le tradizioni. Se le tradizioni ci vengono tramandate, trasmesse, vuol dire che c'è un perché. Allora, la cosa importante è andare a scavare, capire il perché di queste tradizioni, da dove sono nate. Quindi faremo in modo la volta prossima di dire qualcosa anche su ciò che la nostra ascoltatrice di Roma ci ha condiviso. Quindi la volta prossima vedrò di dire qualcosa proprio su questa tradizione molto particolare, molto significativa, che mi incuriosisce, legata alla città di Messina. Quindi grazie di cuore Rosa per questo tuo intervento. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto. Buonasera padre, grazie per la bella catechesi. Io sono Maria da Messina, e la mia domanda è un'altra, ma intanto per rispondere alla signora, la tradizione è vera, noi abbiamo la Madonna della Lettera e nei sobborghi di Messina è il luogo dove si dice che sia approdato prima di attraversare lo stretto San Paolo, si chiama Galati ed è un paesino, è proprio nei sobborghi di Messina, come la famosa lettera ai Galati. E comunque abbiamo questa grande tradizione, abbiamo la lettera secondo la nostra tradizione della grande fede fondata da San Paolo, oltre a un paesino che si chiama Mili San Pietro. Comunque la mia testimonianza su questa catechesi che le ha fatte è un'altra. Ecco, mi ha colpito il fatto che quel popolo di Malta, praticamente come le dicevano loro barbari, nonostante non si capissero, quindi un'altra lingua, un'altra cultura più primitiva, abbiano avuto una grande benevolenza nell'accoglierli e quindi avevano il cuore aperto all'azione di Dio. E mi ha fatto riflettere sul fatto che il Signore si manifesta e agisce quando trova i cuori aperti alla sua azione, proprio disposti alla carità. Cioè, se abbiamo un cuore acceso dalla carità verso il prossimo, allora il Signore in questo caso porta i suoi frutti nella vita delle persone. E questo penso che ha facilitato anche San Paolo nella sua predicazione, nella sua testimonianza, nel portare la fede in quell'isola e in tutti gli altri posti, ma soprattutto lì, perché ha trovato proprio una rara benevolenza, quindi l'apertura da parte delle persone che, nonostante all'inizio pensavano che fossero divinità, poi non hanno stentato a credere che loro fossero inviati di Dio e quindi hanno accolto la parola, il cristianesimo in tutto, tant'è vero che si sono fidati a portare gli ammalati e San Paolo ha trovato diciamo il terreno fertile, nel senso che ha trovato i cuori ben disposti. La ringrazio, Maria, perché effettivamente quello che lei ha evidenziato è davvero uno degli aspetti importanti, no? Che sono emersi dal testo che abbiamo commentato oggi, cioè l'accoglienza della popolazione diventa luogo attraverso il quale il risorto può manifestare, attraverso la figura di Paolo ovviamente, tutti i suoi segni, perché effettivamente non sono molte le città dove i segni si manifestano con questa forza, cioè tutti i tratti che il risorto ha affidato agli apostoli nell'isola di Malta si compiono, probabilmente proprio perché sullo sfondo c'è un'accoglienza fatta, teniamolo presente, non solo a Paolo, ma a tutti quelli che sono arrivati naufraghi con lui. E noi sappiamo che questi naufraghi non è che erano tutti degli stinchi di santi, perché c'erano molti prigionieri, e quindi se erano prigionieri forse qualcosa avevano pure combinato, però vengono accolti con grande benevolenza dalla popolazione a motivo del naufragio che avevano alle loro spalle. Quindi la ringrazio, Maria, anche per aver richiamato la tradizione di Messina. Ovviamente qui penso si tratti di un arricchimento al testo, quindi di una tradizione che si sviluppa a partire dal versetto 13 degli Atti, dove dice: salpati di qui giungemmo a Reggio, quindi probabilmente a un certo punto in questo dato biblico la tradizione ha inserito delle tappe intermedie che meritano, come dicevo, di essere approfondite e condivise nella prossima trasmissione. Quindi grazie di cuore, Maria, per la tua sottolineatura e il tuo intervento. Cari ascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi noi ci diamo appuntamento al mese prossimo, dove rimaniamo proprio in sintonia, perché entriamo nella parte che ci concerne di più, no? nei diversi luoghi d'Italia dove Paolo prigioniero passa. Auguro a tutti voi una feconda preparazione all'accoglienza del dono dello Spirito Santo che celebreremo nella grande solennità di Pentecoste e un fecondo tempo pasquale. Continuiamo ad affidarci gli uni gli altri a Maria nella preghiera del Santo Rosario e invochiamo l'uno per l'altro la benedizione del Signore. A tutti voi l'augurio di una buona serata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.